Parto da sempre pagina 50, numero 11. Il rilievo dato dall'esistenzialismo alla solitudine ultima dell'individuo è un utile avvertimento, non solo per elaborare ulteriormente i concetti di decisione, responsabilità, scelta, autocreazione, autonomia, della stessa identità, ma anche perché rende più problematica e affascinante il mistero della comunicazione, vuol dire mettere in comune dei mondi, delle forme, no? Comunicazione tra diverse solitudini, per mezzo ad esempio dell'intuito, dell'empatia, dell'amore, dell'altruismo, dell'identificazione con gli altri e dell'omonomia in generale. Noi diamo per scontati tutti questi fenomeni, ma sarebbe meglio se li condenserassimo come miracoli da spiegare. Allora, quando parla la solitudine ultima dell'essere umano, ma è così? Domanda. Il Buddha si sentiva solo? Gesù si sentiva solo? Meister Eckhart si sentiva solo? L'Atman si sente solo rispetto al Brahman? No. Quindi la solitudine ultima dell'essere umano è la solitudine dell'ultimo pezzo della personalità quando finalmente si sta per aprire. A quel punto si sente sola perché non è più parte di nessun gruppo umano, non è più parte di nessuna cultura, non è più parte di niente. A quel punto va nella solitudine. Ma la solitudine sappiamo che vuol dire fare il vuoto degli attaccamenti. Fare il vuoto degli attaccamenti e dei desideri vuol dire trovarsi in quella terra sconosciuta, oltre le colonne dell'Ercole, dove sembra che tutto crolla. Ma fare il vuoto è l'inizio per riconsiderare che tutto è pieno. Il vuoto quantistico non è vuoto, è fatto di lampi di luce. Quindi, che cosa stiamo parlando? Stiamo dicendo che la solitudine ultima dell'essere umano è la solitudine dell'essere umano che sta finalmente sbriciolando gli ultimi pezzi di personalità. Quando ha finito di sbriciolarlo, non si pone più il problema della solitudine, perché l'essere umano diventa in quel momento, si divinizza, diventa Dio, se si collega con tutto ciò che c'è. E tutto ciò che c'è, quando si è collegato, non è più solo, se non in modo completamente diverso come viene intesa la solitudine, solo inteso che è separato, staccato da ciò che è fasullo, come il monaco, no? Chi diventa monaco è colui che ha ad affrontare la solitudine. La solitudine vuol dire, monaco monos, che vuol dire solo, ma vuol dire anche uno, cioè solo ma uno. Nel momento che è solo ma uno, la solitudine intesa in senso di personalità è finita. Non so se rendo l'idea. Io mi sento solo, separato dagli altri, soffro. Ma se mi sento solo, nel senso di uno, connesso con tutti, chiamo pure solitudine questa, ma è tutta un'altra cosa. Ecco, la solitudine di questo tipo va cercata. L'opposto di questo tipo di solitudine è la confusione, il rumore, la musica coi trapani, coi martelli pneumatici che c'è oggi dappertutto per evitare questo senso di vuoto. Ma il vuoto è necessario percepirlo, soltanto nel vuoto, solo quando troviamo il vuoto, quel vuoto poi veramente, quando ci entriamo dentro, quel vuoto si riempie di Dio, cioè si riempie del tutto. E questa intuizione che hanno avuto i mistici è grandiosa perché corrisponde a quello che oggi sappiamo essere il vuoto nella fisica. Non esiste un vuoto, esiste un campo di infinite memorie, di movimenti, di vibrazioni che sono la realtà profonda che ci sta dietro i fenomeni. Capisci? Quindi quando noi ci identifichiamo nei fenomeni di superficie, allora lì possiamo anche sentirci soli e separati. Voi andate in montagna, me ne sto qua, io vado via e voi... Ecco, ma nel momento in cui ci colleghiamo col vuoto profondo, lì troviamo tutte le grandi, la grande anima del mondo, il Brahman, colleghiamo tutte le anime di questa terra, ecco, che ci sono sempre state, tutte le essenze. Questo è un passaggio più difficile, capire il vuoto in senso buddista è un passaggio ulteriore, questo non è un discorso da fare a tutti.